Blog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Gianluca, abbasso l'aria condizionata, abbasso, fa ammalare tutti, ci sta meglio senza. Allora, il problema dell'aria condizionata è che le donne hanno più freddo degli uomini, semplice. Quindi quello che per te è fresco, per loro è gelo. E quello che per te è un po' di caldo, per loro è stiamo bene così. Se tu gli accendi l'aria condizionata, le fai ammalare, le fai star male, raffreddori, sinusite. Per loro non vogliono ammalarsi, hanno ragione. L'equilibrio sta nel tu ti devi vestire più leggero e loro magari mettere la mezza manica quando tu metti la canottiera. Ecco, o la manica lunga quando tu metti la mezza manica, perché in certi ambienti mi capisci che non è che si può mettere la canottiera. È tutto lì, l'aria condizionata va dosata, gli uomini hanno tendenza a tenerla sparata, troppo alta, esagerata, perché hanno il picco di calore, e invece bisogna imparare a regolarla, anche per il risparmio energetico. Ci siamo, non potevo fare a meno di fare questa trasmissione che mi accompagna, fedele, per ogni cambio di stagione tra primavera e estate, che più o meno nelle latitudini in cui mi produco a questo microfono avviene in questo periodo, fine maggio, inizio giugno. Normalmente dovrebbe essere primavera, ma qui è già estate. Da cosa si capisce che è estate? Da due cose. Primo, iniziano con le notizie interstiziali nei telegiornali dedicate al caldo. Mi raccomando, inizia ogni anno, poi adesso c'è un anticiclone che porterà il caldo, adesso non ricordo come si chiama quello di quest'anno, sempre nomi fantasiosissimi. Inizia e cominciamo, le categorie deboli da proteggere, mi raccomando, nelle ore di maggior calore state all'ombra, state a casa, bevete molta acqua, ma mi sembrerebbe paradossale dire nelle ore di molto calore mettetevi in piazza sotto il sole cocente e bevetevi, che ne so, vin brûlé o cose del genere. No, non è possibile. No, vabbè. Ma lateralmente a questa protezione delle categorie deboli, che sono gli anziani e i bambini, che non stare al fresco, infatti vanno in giro per centri commerciali a godersi l'aria condizionata, inizia la guerra dei condizionatori. Iniziava fino a qualche anno fa soprattutto nei luoghi di lavoro, negli uffici, oggi anche nelle case, visto che la maggior parte delle abitazioni è dotata, grazie a Dio, di condizionatori. Le categorie sono due, non so se le ricordate, sono i criofili e i criofobi. Il criofilo, a cui io appartengo, è colui che decide che a un certo punto bisogna vivere, bisogna produrre, bisogna star bene, accende il condizionatore. Il condizionatore lo tengo acceso nel mio studio e praticamente passo la maggior parte della mia giornata. C'è un clima glaciale, la gente entra in CU che è freddo e esce subito, la gente entra in CU come si sta bene, non uscirei più. Sono amici, benvenuti, fratelli di condizionatore. Il criofobo, in realtà l'avete già sentito riassunto, è colui che ha sempre una scusa per dire che in realtà fa troppo freddo. È la persona che ogni mattina, ma non adesso in questa mia particolare occupazione professionale, da quando lavoro, quindi da più di 30 anni, io entro nel mio luogo felice di lavoro, trovo spalancate le finestre e soprattutto spento il mio condizionatore, che lascio la sera a massima velocità per trovare bello il loculo ghiacciato la mattina. E ci sono sempre una serie di scuse. È vero, sì, le donne sono quelle che sentono più freddo, quelle più insofferenti al condizionatore. Ci sono delle teorie, perché le donne hanno una minor massa muscolare, quindi una minor difesa, quindi per la donna è naturalmente più facile sentire il freddo del condizionatore. Ma voi da che parte state? Siete criofili o criofobi? Come reagite voi quando qualcuno vi apre la finestra in piena estate, ci cambiamo un po' l'aria, quando si sta benissimo, quando ci sono quei bei 16-17 gradi che mantengono vivi l'intelligenza? E voi invece siete criofobo? Quanto voi odiate la persona che vi fa raggelare, che vi costringe a quelle patetiche messe in scena? Mi metto il golfino, mi metto la giacca, mi copro, batto i denti, starnutisco, ho mal di testa, mi fa male la cervicale, Dio mio, non ce la faccio. Questa sorta di ricatto morale che impedisce alla persona di vivere serenamente la loro climatizzazione artificiale. 800240024, ditemelo subito, da che parte state? Per me anche l'aria condizionata puzza, cioè io quando entro in un grande centro così e sento quell'aria, il primo impatto è di odore, che a me, che non è assolutamente come l'odore di sudore, però, e se poi ti capita con l'aria condizionata di avvicinarti ad uno o ad una che veramente puzza, è veramente il compendio di tutto. Vedete quanto può il pregiudizio la stanza, il luogo, il locale, l'ufficio, la camera, la stanza, la camera d'albergo puzza se spenta l'aria condizionata. L'aria condizionata, con quel suo meraviglioso sistema di ricambio, toglie ogni odore, toglie ogni puzza, allevia ogni particolarità e incongruenza olfattiva. Il cattivo odore si sente quando la gente suda, ma se c'è l'aria condizionata la gente non suda, si raggela il sudore. Il cattivo odore, l'odore di polvere, l'odore di sudaticcio, l'odore di piedi di un'intera stagione di passaggi e passaggi sotto le scrivanie, scompare improvvisamente. Perché ce l'avete tanto con i condizionatori? Siete criofobi o criofili? Qual è il vostro atteggiamento? Quando entrate a casa vi accorgete che hanno approfittato la vostra assenza per aprire tutte le finestre. Quando entrate in ufficio dopo una riunione vi rendete conto che la vostra mezz'ora di assenza ha fatto sì che il microclima fosse improvvisamente cambiato. E sentite quella terribile afa, mista di asfalto, mista di odori di friggitoria. C'è sempre una friggitoria vicino a ogni ufficio, sempre un odore che sale, di salsiccia arrostita, di patata fritta, di sushi malfatto, di qualcosa di putrefatto che entra dalla finestra. Com'è bello rimanere chiusi, isolati, staccati dal mondo con il vostro condizionatore. 800240024. Nella guerra del condizionatore, da che parte state? Viva l'aria condizionata, io ce l'ho in ufficio, in macchina, poi ho la casa disseminata di condizionatori. Nel momento in cui faranno una tuta speciale per avere anche l'aria condizionata mentre si va in giro, sarò sicuramente uno dei primi a comprarla. Se becco quello che ha costruito i treni che non hanno più finestrini ma sono tappati come delle scatolette dove devi stare sotto vuoto, lo stritolo, lo spapolo, lo smagnucolo con quei filtri d'aria condizionata puzzolenti che entri dentro umido, bagnaticcio, vermosetto, che sa di blatta, guarda, veramente quest'aria condizionata mi fa schifo. Io voglio l'aria, voglio l'aria. Aria condizionata nel traffico che c'è. Aria condizionata nel traffico che c'è. Aria condizionata. Francesco, buongiorno. Sì, buongiorno Nicoletti. Qual è il suo punto? Innanzitutto dichiari la sua appartenenza. Allora, io sono per l'aria condizionata. Beh, criofilo come me, perfetto. Ok, come tutti gli uomini. Allora, io faccio un lavoro che riparo le fotocopiatrici. Quindi respira toner dalla mattina alla sera. Perfetto, quindi vado nelle aziende, uffici, scuole. Io quello che ho notato è che le donne odiano l'aria condizionata, ma non capiscono, cioè, ho notato questa cosa. Le donne, col periodo estivo, possono andare in ufficio con i sandali. Certo. La gonna, beate loro, a maniche corte, beate loro. Nei uomini non è concesso, quindi giustamente loro amano il caldo, però a cui sono più esposte perché sono più spogliate, hanno i piedi, le donne hanno i piedi scoperti, non lo soffrono il caldo come lo soffriamo noi che comunque dobbiamo andare in jeans o alcuni in giacca e cravatta, ecco. Quindi dipende anche dall'abbigliamento, ma quindi secondo lei le due categorie sono maschi contro femmine, sempre così? Assolutamente sì, poi comunque ci sono le eccezioni, però io quando entro adesso in un'azienda e c'è la ragazza con la minigonna, i sandali, la magliettina smanicata, a parte che è un piacere, ok? Però insomma poi a fianco c'è il collega con la camicia, la oggi ero in una banca, quindi camicia, figurati, cravatta, grisaglia, compagnia bella, giustamente l'uomo ha caldo e vuole l'aria condizionata, la donna invece è, diciamo, sì, anche perché diciamo, l'uomo l'abito da lavoro dell'uomo mediamente impiegatizio, ma anche professionista, anche un avvocato, anche un commercialista, è frescolana, non mette l'abituccio di cotone perché non tiene la piega, quindi il frescolana d'estate, voglia dire, anche a me una volta mi fregavano quando facevo un lavoro di tipo manageriale, no, ma il frescolana è freschissimo, sì, vatti a mettere il frescolana, sudi, sei in una sorta di gabbia di piombo, capito? Quindi l'uomo è caldissimo, devi mettere i calzini, vuoi mettere le scarpe senza calzini, è una quattata, e il calzino si sa è uno stivaletto malese d'estate, la scarpa con i lacci di cuoio è una tortura, mica può metterle, e quindi è chiaro, noi siamo più svantaggiati, bisognerebbe fare probabilmente una sorta di apartheid, bisognerebbe fare degli uffici separati per criofobi e criofoli, ma da quel punto di vista emargineremmo le donne, sarebbe appunto discriminazione, classismo, è impossibile. Giovanni, buongiorno. Sì, buongiorno, chiamo da Pordenone. Allora, all'età di 5 anni sono andato a New York e ho fatto 30 anni lì. Rientro in Italia, in Puglia, di pomeriggio d'estate, non si poteva andare da nessuna parte, i zii non avevano l'aria condizionata, guai, i ventilatori. voglio dire che se accendi l'aria condizionata e il vento non è addosso, va bene così. Che si mettono dietro la finestra con le persiane socchiuse, con il ventaglio, le donne con le ciabatte, la vestaglia e gli uomini in canottiera. Sì, però gli italiani non hanno un concetto dell'aria condizionata, aprono le finestre con l'aria condizionata accesa, dopo lo spengono. Ma non me ne parli, guarda, non me ne parli, questa è una delle ragioni per cui spesso entro a casa con la motosega nella fondina, è la stessa cosa. Io come esco, staccano i condizionatori, per questo ormai vivo quasi praticamente da solo in questa stagione, staccano i condizionatori e apro le finestre. Dice, ma apro un attimo per cambiare l'aria. Ma il condizionatore va acceso a giugno e va spento a fine settembre, la cambia lui l'aria, no? Sì, sì, sì, beh, se lo lasci a una certa temperatura e non hai proprio questo vento addosso, va bene, anzi negli Stati Uniti c'è agevolazione per le persone che soffrono di certe malattie, di cui d'estate soffrono tantissimo, è un paese civile. E tutto il resto. È un paese civile. È molto chiaro dal nostro amico americano che sta in un posto civilizzato dove da anni l'aria condizionata è ormai la norma. In Italia è considerato un lusso, qualcosa di nuovo, o una lussuria, quindi viene centellinato il condizionatore, lo aprono un attimo, 5 minuti, diamo una rinfrescatina e poi lo chiudono e poi aprono le finestre e poi non fanno la manutenzione e poi li tengono anche se non funzionano, totalmente inutili. È una sorta di atteggiamento che psicologicamente si sentono adeguati ai tempi e gli appartamenti condizionati, ma in realtà hanno quella profonda anima tipicamente pugliese, come ha detto il nostro amico, ma italiana in generale, di dover tenere le case calde, perché quella sorta di afore e offrore allo stesso tempo dà l'idea del passaggio stagionale. Ci fermiamo un istante soltanto per il traffico, poi riprendiamo. Melog, cronache meridiane. Giallù, sul discorso dell'aria condizionata, secondo me non è un problema tra maschi e femmine. Uno si accorge di essere invecchiato quando comincia a non sopportare più l'aria condizionata. L'aria condizionata non viene sopportata dai vecchi, non dalle donne, dai vecchi. Tu sei ancora giovane perché a te piace l'aria condizionata, ma il giorno in cui entrerai in un posto e avvertirai fastidio dall'aria condizionata e chiederai a qualcuno di spegnerla, vuol dire che sei invecchiato. Guarda che giornata di sole che c'è. Questa singolare teoria, che dovrebbe essere una sorta di paura preventiva dell'obitorio, che uno a un certo punto avanti degli anni non vuole più l'aria condizionata, ha paura del gelo, ha paura del rigor mortis. No, semplicemente secondo me è un atteggiamento mentale. Mi scrive un ascoltatore: Nicoletti, il 90% dell'aria condizionata è finta. Ecco, c'è questa idea che sia qualcosa di sintetico. Le donne dicono sempre, mi suggerisce Intonti che conosce le donne, questa è aria finta, apriamo le finestre, vogliamo aria vera. Le stesse donne poi tengono in casa, che ne so, la piantina di lavanda che comprano dai cinesi di plastica. A che serve la lavanda finta di plastica se non profuma di lavanda? Però l'aria finta, o comprano, che ne so, nelle bancarelle un cetriolo di gomma più, ma che ci fai? Invece puoi fare l'insalata, niente, è così, è un ornamento. Clemente, buongiorno. Buongiorno, mi collego subito a quello che ha detto, mi scosto un attimino da quello che volevo dire. Guardi che i condizionatori però possono portare malattie, trasmettere malattie. Anche la vita porta malattie, anche gli amori più intossicanti portano malattie. Tutto però porta malattie. Aprire le finestre e far entrare un po' d'aria, voglio dire. Cosa c'è di naturale? Guardi, se apro la finestra di fronte a me, cosa c'è di naturale? Mentre al traffico di Piazza Indipendenza, l'odore delle persone che stagnano sui marciapiedi da settimane in mezzo ai rifiuti qua sotto, le automobili che passano, gli autobus e via dicendo, cosa c'è di naturale? Ci sono più malattie fuori dalla finestra che nel condizionatore, almeno c'è un filtro. Per il condizionatore aperto, acceso, sì, sì. Sicuramente. Comunque, vabbè, lei ha paura delle malattie, le malattie, si porta malattie, no, secondo me, a chi non ce l'ha. Anzi, io sono volevo semplicemente dire anche questo, che i condizionatori comunque devono essere seguiti, c'è bisogno di una manutenzione comunque. Ecco una cosa, non bisogna risparmiare sul condizionatore, va adeguato ai modelli, va fatta la manutenzione, vanno puliti i filtri, bisogna cercare sempre di quello. È un costo, lo so, è un costo, uno vuole star bene, no, è un costo, certo. Nel senso, uno si fa abbassare qualche grado in più e magari risparmia. Per non parlare dell'inquinamento. E uno fa delle scelte, io riesco a star dentro casa, no, certo, al fresco, e andarmi a mangiare la pizza, cacco, i spaghetti con le code. Vedo gente che sabotta sotto il sole, si riempie di matriciana, io preferisco fare una manutenzione al mio condizionatore, stare a casa e mangiarmi il mio yogurtino. Cristina. sono qua che lavoro in uno studio dentistico praticamente, e viva Dio che esiste l'aria condizionata, perché a mo' di scafandro noi mascherina, cuffia, camice, guanti, se non avessimo coleremo sudore sul paziente. Poi pensi, la fiatella delle carie è terribile, se non ci fosse un po' di aria condizionata sarebbe terribile, veramente. Assolutamente, sterilizzazioni, poi arieggi fra un paziente e l'altro, ovvio, ma non puoi farne a meno. Allora, chi lavora veramente ha bisogno di aria condizionata? Fiorella? Fiorella? Sì, esatto. Esatto, allora, cosa? Anche lei condizionata? Assolutamente sì. Oh, finalmente. No, perché riscattiamo il genere femminile, sennò dobbiamo passare tutte per banalmente criofobe, ma non è così. Si è voluta anche la donna. No, nel modo assoluto. Lei che mestiere fa? Io faccio il medico. E come potrebbe lei visitare un paziente senza aria condizionata? È impossibile, io mi occupo di diagnostica, quindi utilizzo apparecchiature, sono sempre nei sottoscala al buio. Ma senta, lei dà una sfreddatina ai pazienti in sala d'attesa, intanto li ricondiziona un po' prima di mettergli le mani addosso, no, sì? No, vivono, da noi vivono comunque nell'aria condizionata al studio. Anche però il problema qual è? Che loro sentono freddo e allora io mento dicendo che le mie apparecchiature hanno bisogno di una determinata... Sì, per sempre qualcuno rompe le scatole e sente freddo. Assolutamente. Lo manderei adesso a spasso qui davanti alla stazione Termini, esatto. Sentire come si sta bene, capito? Sì, Roma questi giorni è particolarmente impegnativa. Corrado, buongiorno. Grazie, Corrado. Ciao Gianluca, buongiorno. Sì. E criofilo, oh, finalmente apriamo le finestre, facciamo entrare 40 gradi al 99% di umidità per rinfrescare l'ambiente. A parte questo, io mi riaggancio al discorso internazionale. Io ho un vago ricordo, mi dispiace di non avere i computer accesi per controllare, ma qualche anno fa l'imperatore del Giappone pregò tutti i dirigenti, i suoi sudditi, di piantarla, di andare a lavorare in agosto in giacca e cravatta, di andare in polo. Lui stesso in prima persona si presentò in un qualche... Sì, certo. In polo, dicendo piantiamola perché spendiamo dei soldi e perché danneggiamo l'ambiente inutilmente. Ah, quindi lei per spogliarsi, per spegnere l'aria condizionata, allora è un infiltrato. Nel senso che, come si diceva all'inizio, è inutile che la donna venga in mutande, l'uomo sia costretto a venire in giacca e cravatta per poi litigarsi in ufficio. Beh, allora le dico, guardi, oggi grazie a Dio esiste una varietà tale di tessuti, di modelli, di abiti. L'uomo può mettersi anche un abito che non si sente addosso. Se l'uomo vuole mettersi la grisaglia e rimanere mummificato come negli ultimi 50 anni sempre, chi doveva difendere uno status professionale, peggio per lui. Ci sono giacche assolutamente che uno può mettere addosso, è come avere una piuma d'angelo. Dipende anche dall'atteggiamento. Secondo me c'è una tale arretratezza del considerare l'evoluzione tecnologica in chi veste la grisaglia, che comunque sia, anche con l'aria condizionata, anche con tutte le situazioni, sentirebbe sempre caldo, perché non è adeguato ai tempi. Cinzia. Pronto, buongiorno. Sì. Parlo una persona che lavora 8 ore al giorno in una grande, nel settore amministrativo di una grande società di Torino, quindi siamo in circa 30 in un solo open space. Io sono fra quelle disgraziate vicino a due condizionatori tenuti accesi tutto il giorno, quindi mentre noi, indipendentemente da che siamo maschi o femmine, criofobi o criofili, noi vicino ai due condizionatori geliamo letteralmente. Ma lei non può cambiare postazione o mettere la rotazione? E no, i nostri posti sono assegnati. È come il sottoscala di Fantozzi, voi lì dovete morire. Sì, guardi che così sono assegnati, ogni volta che c'è un trasloco per noi è anche solo una postazione di lavoro, non possiamo cambiare da una scrivania all'altra. Beh, i torinesi in questo sono rigorosi, sono sabaudi. È una grande azienda di Torino, io sono la parte fiscale per un'azienda automobilistica, quindi si immagini quanto è grande questa cosa e cosa vuol dire se ognuno... E cosa fate? Attaccate il cartoncino con lo scotch come fanno tutti? No, allora, noi crepiamo, dall'altro lato veramente c'è gente che viene dal caldo. E perché noi non vi alternate le scrivanie? Scusa, fate un po' per uno. Non possiamo cambiare le scrivanie, sono assegnate. Cioè cambiare e che succede? Mica non ho mai sentito uccidere uno che cambia scrivania. No, non si può, bisogna avvertire i servizi generali dispongono. Mamma mia, è una sacca dimenticata, di burocrazia umbertina, non lo sapevo. Mi dispiace per voi, aggiornatevi, fate aggiornare le vostre risorse umane. Alla prossima.